sembra di vetro la tua anima. Si specchia dentro la mia favola. Con un dito riesce a farla magica. Come se non fosse successo nient'altro nel resto del mondo, a parte questo cosmo dentro che esplode ogni volta che guardo quegli occhi e mi perdo. E prima il colpo arriva, e prima il colpo arriva. La tua anima. Si frantuma come la mia favola. Quegli occhi e mi perdo.